La nostra puntata di oggi di Festivals Backpack è dedicata anche a un cantautore che vi abbiamo già raccontato tante volte e che oggi proprio intervistiamo. Ci facciamo raccontare dalla sua voce, la sua attività e anche l'attività live, perché a breve sarà qua a Bologna con una data che noi vogliamo ricordarvi e che speriamo, insomma, vi piacerà. Sto parlando di Giovanni Truppi. Benvenuto Giovanni a Radio Città Fujiko. Ciao, ciao a tutti, grazie per l'invito. Come stai? Come sta andando? Bene, bene, tutto bene. Sono molto felice di fare, come tu dicevi, questo tour. È una ricorrenza per me molto bella dei 10 anni del mio secondo disco, che poi per molte persone che mi conoscono è il mio primo, perché in effetti è il disco dove ho più individuato la mia cifra stilistica e quindi è il disco con il quale sono riuscito per la prima volta ad arrivare a un po' di persone in maniera convincente, e sono molto contento di rivivere quel momento di ritornare a suonare con Marco Buccelli, con il quale ho suonato quel disco, con il quale ho prodotto quel disco, e che oltre ad essere poi in realtà il produttore di tutti i miei dischi, il coautore di quasi tutti i miei brani, è un amico fraterno, vive negli Stati Uniti, non suoniamo tanto insieme, quindi sono contento per tantissimi motivi diversi. Sarà una festa, insomma. Esatto, sì. Dicevi prima tu appunto che è il decennale del secondo album, quindi la tua carriera in realtà è un po' più lunga di un decennio, ha visto però tantissima, una produzione molto fitta, perché comunque parliamo di 5 album, sono tanti. Ti chiederei com'è cambiato anche in tutti questi anni, in questo oltre decennio, la tua musica e anche il tuo modo di raccontarti attraverso i dischi. Ma da un certo punto di vista il mio approccio è rimasto lo stesso. Cerco a partire da quel secondo disco ho cercato sempre di raccontarmi nella maniera, raccontarmi in senso lato, cioè non per forza facendo letteralmente il racconto di me, ossia autobiografismo, ma comunque di scavare il più possibile dentro di me, cercando quello che mi sembrava più urgente riportare nelle canzoni. Quindi questa cosa ho sempre cercato di conservarla. Allo stesso tempo il mio modo di fare musica è cambiato, anche perché il mio approccio è anche cercare di sorprendermi, proprio per conservare fresca la mia espressività. E quindi il mio approccio da disco a disco è cambiato, direi sempre, anche proprio dal punto di vista sia dal punto di vista della scrittura che dal punto di vista della produzione, degli arrangiamenti, e quindi mi sembra di avere da una parte una forte continuità e dall'altra invece di aver fatto dei dischi molto diversi tra loro. Sicuramente la cosa che si percepisce, io te lo dico anche da ascoltatrice della tua musica, è una grande fedeltà, insomma, no? a ciò che racconti, ecco. Tutti i dischi sono molto diretti, raccontano molto, molto di te e anche del rapporto molto stretto che c'è con la musica, almeno questo è quello che abbiamo percepito noi. Io ti chiederei anche, hai detto infatti, rimanere fedele a te stesso e allo stesso tempo raccontarti non solo come strumento di autobiografia in un qualche modo, ecco, le canzoni che hai fatto sono tante e sono sicuramente anche molto intime nei racconti che fai, da dove nasce, insomma, l'urgenza di raccontarti attraverso le canzoni? Ah beh... Che dire, credo che mi costringe a usare la parola vocazione, nel senso che secondo me a un certo punto uno sente di avere un'urgenza, quel tipo di un'esigenza. Io a un certo punto ero molto affascinato dall'arte in generale e nello specifico dalla musica, e mi sembrava la cosa più bella del mondo e ho cercato di farla anch'io. E secondo te la musica è uno strumento che può funzionare molto bene nel raccontarsi anche a se stessi, insomma? Ma sì, poi appunto raccontarsi secondo me serve fino a un certo punto, serve nel senso che se è una esplorazione di sé, se fa parte di un percorso di conoscenza, di analisi, è sicuramente importante, e la musica... Sì, come un qualsiasi altro mezzo di espressione può essere assolutamente uno strumento in tal senso. Dopo queste domande un po' di psicoterapia, sembrava quasi, ho fatto delle domande molto profonde. Io ti chiederei se hai voglia di farci ascoltare una canzone, una delle tue canzoni, e poi torniamo da te per parlare un pochino dell'album e del tour. Certo, potremmo ascoltare la felicità, appunto dal mio ultimo album, Infinite possibilità per esseri finiti. Perfetto, allora ascoltiamo questo brano e torniamo da te. Dopo questa canzone torniamo e ti vorrei fare proprio una domanda su questo tuo ultimo album. Quest'album è uscito nel 2022, se non sbaglio, sono 15 tracce e all'interno di queste 15 tracce ci sono anche diversi brani rimasterizzati. Quindi brani che avevano già visto, insomma, erano già stati ascoltati e che sono tornati in questo tuo ultimo lavoro. Come mai sono tornati e che cosa è cambiato nel rapporto con questi brani? Sono tornati perché abbiamo fatto un'edizione in vinile di questo album. Beh, il rapporto, appunto, il fatto già di averli ripubblicati per me significa che ho un buon rapporto con loro, non era scontato e quindi è una cosa che mi fa piacere. Poi ovviamente alcuni di questi brani sono per me invecchiati meglio e altri meno bene, ma questo credo sia normale. Mi ha fatto molto piacere in questi mesi, nei mesi prima del tour, confrontarmi con questo repertorio, perché ho recuperato un approccio molto live all'esecuzione, molto legato alla chitarra, che negli ultimi mesi, cioè nei mesi precedenti, fino a quest'estate, avevo messo un po' più da parte, perché il mio ultimo disco è un disco più con una natura più elettronica, quindi dove ho suonato di meno la chitarra. Mi sono molto divertito a riprenderla in mano per ore. Perfetto, e tra questi brani ce n'è qualcuno che è il figlio prediletto? Beh, c'è la canzone che dà il titolo all'album, Il mondo è come te lo metti in testa, che è un po' la mia canzone manifesto, continua ad esserlo dopo tanti anni, e forse le devo riconoscere una importanza maggiore che ad altre che magari amo di più. E riguardo, dicevamo prima, i live, perché insomma stiamo facendo questa intervista anche perché sta iniziando un nuovo tour, parte se non sbaglio il 2 di dicembre e tra pochino, poi a metà dicembre, sarai anche a Bologna. Ecco, prima di ricordare le date ti chiederei, venire ai tuoi live è sempre anche un momento molto molto rilassante e piacevole, ma anche perché tu sei molto in grado di comunicare col pubblico, metterlo a suo agio e cancellare un po' la distanza che c'è tra il palco e la platea e il pubblico in un qualche modo. Questo è quello che vediamo noi da sotto palco. Invece tu come li vivi live? Sono dei momenti che vivo molto intensamente. Mi piace molto suonare dal vivo, mi diverto molto e anche al di là del divertimento, nel senso più leggero del termine, che c'è, ma anche proprio l'espressione sul palco attraverso appunto l'esecuzione dei brani, non solo la loro scrittura, la considero una parte importantissima del mio lavoro, che non considererei completo se mancasse questa parte qui, quindi li vivo così, sono molto molto importanti per me. Perfetto, allora io ti chiederei se hai voglia di ricordarci quando suonerai qua a Bologna, insomma quando sarà la data, e anche se hai un messaggio per le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Città Fujiko, che se vuoi scegliere una canzone, tre cose ti chiedo, tre in una volta. No, suonerò al Locomotive il 14 dicembre. No, io sui messaggi cerco proprio di scrivere, cioè, mi fa molto piacere salutare con grande calore tutti gli ascoltatori e poi non ho altri messaggi. Forse a proposito di messaggi, tra l'altro, c'è una canzone del disco mio ultimo, Infinite possibilità per essere finiti, che si chiama Infinite possibilità. È una canzone molto molto densa, con molto politica, è una canzone che mi piace particolarmente, che per me è molto importante tra quelle di questo disco, e sono felice di lasciarvi con questa. Allora prendiamo questa canzone come messaggio e anche come invito per venire ad ascoltarti al Locomotive Club. Io Giovanni ti ringrazio tantissimo per questa intervista e ti auguro una buona giornata. Grazie, ciao. Ciao.